ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Avanti, andiamo alla sezione di quartiere. Così disse Brissenden, debole per un'emorragia avuta solo mezz'ora prima, la seconda emorragia in 3 giorni. Tra le mani tremanti teneva, intento a prosciugarlo, il sempre presente bicchiere di whisky. Che c'entro io con il socialismo? Domandò Martin. Gli esterni possono parlare per 5 minuti, lo incalzò il malato. Alzati e declama. Digli perché non vuoi il socialismo. Digli ciò che pensi di loro e della loro etica da ghetto. Gettagli Nietzsche in faccia e bastonali. Falli a pezzi, gli farà solo bene. Ciò che vogliono è la discussione. Ed è quello che vuoi anche tu. Sai, mi piacerebbe vederti diventare un socialista prima di andarmene. Darà una finalità alla tua esistenza. Ed è l'unica cosa che ti salverà nei tempi di disillusione che ti aspettano. Non riuscirò mai a capire perché tu, proprio tu, sia un socialista, commentò Martin. Detesti così tanto la folla. Di sicuro, la canaglia non ha nulla che la raccomandi al tuo senso estetico. Martin puntò un dito accusatore verso il bicchiere di whisky che l'altro stava riempendosi. Non mi sembra che il socialismo ti salvi, disse. Sono molto malato, fu la risposta. Il tuo caso è diverso. Sei pieno di salute e di anni da vivere. Devi essere ammanettato alla vita in qualche modo. Per quanto mi riguarda, ti meravigli perché sono un socialista. Te lo spiegherò. È perché il socialismo è inevitabile, perché l'attuale sistema corrotto e irrazionale non può durare, perché i giorni del tuo uomo a cavallo sono tramontati. Gli schiavi non lo permetteranno, sono troppi e, per amore o per forza, trascineranno a terra l'aspirante cavaliere prima ancora che riesca a montare la sua cavalcatura. Non puoi liberarti di loro e dovrai ingoiare la loro morale da schiavi. Non è una situazione simpatica, te lo concedo, ma questa è la minestra e te la devi trangugiare. Ad ogni modo, tu, con le tue idee nietzschiane, sei antidiluviano. Il passato è passato e chi dice che la storia si ripete mente. Naturalmente io odio la folla, ma cosa dovrebbe fare un povero diavolo, eh? Non possiamo avere un uomo a cavallo e qualsiasi cosa è preferibile a questo governo di porci timorosi. Coraggio, e me ne sto ancora seduto qui. Mi ubriacherò. E sai cosa dice il dottore? Ah, al diavolo il dottore, me ne sono sempre sbattuto dei suoi consigli. Era domenica sera. Brissenden e Martin trovarono la piccola sala stracolma di socialisti di Oakland, per lo più appartenenti alla classe operaia. L'oratore, un intelligente ebreo, si guadagnò l'ammirazione di Martin e allo stesso tempo ne risvegliò lo spirito di competizione. Le spalle di quell'uomo, strette e incurvate, il torace poco sviluppato, lo dichiaravano il vero figlio del ghetto sovraffollato. Martin percepì con forza la lotta, antica come il tempo, degli schiavi deboli e malati contro quella manciata di nobili signori che li dominava e che li avrebbe dominati fino alla fine del tempo. Per Martin, quella creatura abbizzita era un simbolo. Quella figura si erigeva per rappresentare l'intera miserabile massa dei deboli e degli incapaci che, secondo le leggi biologiche, perivano lungo gli aspri confini della vita. Erano gli inadatti. Ah, nonostante la loro astuta filosofia e la loro propensione da formica per la cooperazione, la natura li scartava per scegliere l'uomo eccezionale. Nella ricca progenie di vita riversata dalle sue prolifiche mani, la natura selezionava solo il migliore. Seguendo lo stesso metodo, scimmiottandola, anzi, gli uomini allevano cavalli da corsa e coltivano cetrioli. Senza dubbio, il creatore di un cosmo avrebbe potuto scegliere un metodo migliore, ma le creature di questo particolare cosmo devono vedersela con questo particolare metodo. Certo, possono contorcersi mentre periscono, come fanno i socialisti, come facevano anche in quel momento l'oratore sul palco e la folla sudata, mentre cercavano di elaborare insieme qualche nuovo strumento con il quale mettere nel sacco il cosmo e minimizzare le conseguenze del vivere. Queste erano le cose che Martin pensava, e queste furono le sue risposte quando Brissenden lo spinse a dire il fatto loro ai socialisti. Martin, salendo sul palco, come si usava, e rivolgendosi al moderatore, fu fedele al mandato. Iniziò a parlare a voce bassa, interrompendosi di frequente per mettere in ordine le idee sorte nel suo cervello mentre l'oratore ebreo parlava. In quegli incontri, ad ogni oratore erano concessi 5 minuti, ma quando il tempo di Martin finì, lui era in piena corsa, solo a metà del suo attacco alle dottrine socialiste. Aveva conquistato l'interesse del pubblico, il quale, a suon di ovazioni e applausi, costrinse il moderatore a concedergli altri minuti. Gli operai socialisti apprezzavano quell'oratore perché era un avversario degno dei loro intelletti e lo ascoltavano con attenzione, seguendone ogni parola. Martin parlava con passione e convinzione, senza usare eufemismi nel suo attacco contro gli schiavi, la loro morale e le loro tattiche, alludendo senza mezzi termini ai suoi ascoltatori come agli schiavi in questione. Citava Spencer e Malthus e denunciava la legge biologica dello sviluppo. E così, Martin concluse con un rapido riassunto, nessuno stato composto di schiavi può durare nel tempo. Le antiche leggi dell'evoluzione vigono ancora. Nella lotta per l'esistenza, come ho dimostrato, il forte e la progenie del forte sono destinati a sopravvivere, mentre il debole e la progenie del debole sono schiacciati e sono destinati a perire. Il risultato è che il forte e la progenie del forte sopravvivono e, fino a quando quella battaglia esisterà, ogni generazione vedrà accresciuta la propria forza. Questo è lo sviluppo. Ma voi, schiavi... Ed è davvero brutto essere degli schiavi, ve lo assicuro. Ma voi schiavi? Sognate una società dove la legge dello sviluppo sia annullata, dove nessun essere, per quanto debole e inadatto, debba perire, dove ogni essere inadatto possa mangiare ogni volta che vuole e quanto vuole. Una società dove tutti si possono sposare e avere dei figli, sia il debole sia il forte. Quale sarà il risultato? La forza e il valore della vita non aumenteranno più da una generazione a quella successiva. Al contrario, diminuiranno. Questa è la nemesi della vostra filosofia da schiavi, la vostra società di schiavi, fatta di, da e per gli schiavi. È inevitabilmente destinata a indebolirsi ed andare in pezzi, perché sarà la vita stessa che la compone a indebolirsi ed andare in pezzi. Ricordate, sto parlando di biologia e non di etica sentimentale. Nessuno stato di schiavi può durare nel tempo. «Cosa ci dici degli Stati Uniti?» gridò uno degli spettatori. «E che cosa se ne può dire?» ribatté Martin. «Le 13 colonie abbatterono i loro dominatori e formarono la cosiddetta Repubblica. Gli schiavi divennero signori di loro stessi. Non c'erano più i signori della spada, ma voi non siete capaci di andare avanti senza un signore di qualche tipo, e così è sorta una nuova classe di signori. Non grandi, virili, nobili uomini, ma astuti e ipocriti mercanti e banchieri, e costoro vi hanno reso di nuovo schiavi. Ma non apertamente. Come avrebbero fatto quei sinceri, nobili uomini con il peso del loro braccio destro, ma di nascosto, per mezzo di una ragnatela di macchinazioni, con lusinghe, moine e menzogne. Quegli uomini hanno comprato i vostri giudici schiavi, hanno corrotto le vostre legislature da schiavi e hanno costretto a orrori peggiori della schiavitù i vostri ragazzi e ragazze, a loro volta schiavi. Oggi, in quella oligarchia del mercato che sono gli Stati Uniti, lavorano in dure condizioni 2 milioni dei vostri figli. 10 milioni di voi, schiavi, non godono né di una casa decente né di cibo in quantità sufficiente. Ma torniamo al nostro argomento. Ho dimostrato che nessuna società di schiavi può durare nel tempo, perché per sua propria natura una simile società va contro la legge dello sviluppo. Non appena una società di schiavi riesce a organizzarsi, ecco che inizia a corrompersi. È facile per voi parlare di abrogare la legge dello sviluppo. Ma dov'è quella nuova legge dello sviluppo che vi permetterà di mantenere la vostra forza? No, formulatela. È già stata formulata? Esponetemela. Martin riprese il suo posto nel mezzo di un concerto di grida. Una dozzina di uomini erano balzati in piedi e rumoreggiavano per richiamare l'attenzione del moderatore. E uno dopo l'altro, incoraggiati da grida e applausi, replicarono all'attacco di Martin, parlando con passione ed entusiasmo, gesticolando, eccitati. Fu una notte scatenata intellettualmente, una battaglia di idee. Alcuni degli oratori si allontanarono dall'argomento, ma la maggior parte rispose punto su punto a Martin. Lo colpirono con percorsi di pensiero per lui nuovi, gli permisero di sbirciare non all'interno di nuove leggi biologiche, ma all'interno di nuove applicazioni di leggi antiche. Erano troppo sinceri per essere sempre gentili e più di una volta il moderatore fu costretto a battere e a urlare per ristabilire l'ordine. Fra il pubblico sedeva anche un cronista alle prime armi. In una giornata piatta, lì distaccato sul fronte delle notizie a causa della necessità connaturata al giornalismo di avere sempre qualcosa di sensazionale da pubblicare. Non era un novellino brillante, era solo superficiale e loquace ed era troppo ottuso per seguire la discussione. E infatti in quel momento provava la rassicurante sensazione di essere assai superiore a quei maniaci chiacchieroni della classe operaia. Per di più, aveva gran rispetto per coloro che occupavano i posti più alti, quelli dove si decideva la politica delle nazioni e dei quotidiani. In ultimo, il suo ideale era diventare un perfetto reporter, cioè essere capace di trarre qualcosa, anche qualcosa di grande, dal nulla. Il giovane cronista non aveva idea di che cosa si stesse parlando, ma non lo riteneva necessario. Parole come rivoluzione gli diedero quest'idea. Come un paleontologo capace di ricostruire un intero scheletro da un solo osso fossile, il ragazzo era capace di ricostruire un intero discorso dalla sola parola rivoluzione. Fu esattamente ciò che fece quella notte. E lo fece bene, poiché Martin aveva fatto più colpo degli altri oratori, gli attribuì tutto ciò che era stato detto e ne fece l'ultra-anarchico dello spettacolo, trasformando il suo individualismo reazionario in un socialismo sfegatato ed estremista. Il giovane cronista era dotato di talento artistico e rese con un largo pennello gli aspetti più di colore dell'incontro. Uomini dagli occhi spiritati e dai capelli lunghi, tipi nevrastenici e degenerati, voci che tremavano per la passione, pugni alzati verso il cielo, tutto ciò su uno sfondo di bestemmie, di grida e del cupo rimbombo prodotto da una folla di uomini eccitati. Il mattino dopo, prendendo il caffè nella sua piccola stanza, Martin lesse il giornale. Era un'esperienza nuova per lui trovarsi in prima pagina con un titolo a caratteri cubitali. Leggendo, fu sorpreso di scoprire che lui era il più famoso tra i capi dei socialisti di Oakland. All'inizio Si sentì arrabbiato per tutte quelle invenzioni, ma dopo aver letto rapidamente il violento discorso che il giovane cronista aveva costruito per lui, Martin gettò via il giornale ridendo. «O quell'uomo era ubriaco, oppure è un malvagio e un criminale», commentò quel pomeriggio, appollaiato sul letto dopo l'arrivo di Brissenden, che si era lasciato cadere, esausto, sull'unica sedia. «Ma di cosa ti preoccupi?» gli chiese Brissenden. «Di sicuro tu non desideri l'approvazione di quei porci borghesi che leggono i quotidiani!» «Oh!» Martin ci pensò su per un po' e poi disse: «No, non sono interessato alla loro approvazione nemmeno per un po'. D'altra parte, è assai probabile che quell'articolo renda le mie relazioni con la famiglia di Ruth un po' imbarazzanti. Suo padre ha sempre sostenuto che sono un socialista e questa miserabile cosa rafforzerà la sua convinzione. Non che mi importi di ciò che pensa, ma chissà cosa ne verrà fuori. Voglio leggerti quello che ho scritto oggi, eh? Ovviamente si tratta di tempo scaduto. Ne ho già scritto una buona metà.» Martin stava leggendo ad alta voce quando Maria spalancò la porta e fece entrare nella stanza un giovane che indossava un completo elegante e che si guardò intorno sfacciatamente, soffermando lo sguardo sul fornelletto ad olio e sull'angolo cucina prima di rivolgerlo verso Martin. «Si sieda», disse Brissenden. Martin gli fece posto sul letto e aspettò che il giovane gli rivelasse lo scopo di quella visita. «L'ho ascoltata parlare ieri sera, signor Eden, e sono venuto per intervistarla», iniziò. Brissenden scoppiò in una risata davvero sincera. «Un confratello socialista?» chiese il cronista, lanciando a Brissenden un'occhiata veloce, sufficiente però per apprezzare la nota di colore che un ritratto di quell'uomo morente e cadaverico poteva dare al suo articolo. «Ha scritto lui quella cronaca», disse Martin a Brissenden dolcemente. «È solo un ragazzo.» «Perché non gli dai una ripassatina?» chiese Brissenden. «Darei $1,000 per poter riavere i miei polmoni sani per 5 minuti», disse, tossendo. Il cronista era un po' perplesso da questo parlare intorno a lui in sua presenza. Ma il giovane era stato lodato per la sua brillante descrizione della riunione socialista e aveva quindi ricevuto l'incarico di intervistare Martin Eden in persona, il capo di quella organizzata minaccia alla società. «Non ha obiezioni a farsi scattare qualche foto, vero signor Eden?» disse il cronista. «Vede, il fotografo del giornale qui fuori dice che è meglio fotografarla subito prima che la luce cali. Poi potremo fare la nostra intervista.» «Un fotografo?» ripeté Brissenden meditabondo. «Dagli una ripassata, Martin. Dagliela.» «Suppongo di stare invecchiando», fu la risposta di Martin. «So che dovrei, ma davvero non me la sento, eh? Non ne vale il disturbo. Fallo per sua madre», lo incalzò Brissenden. È un motivo degno di riflessione», replicò Martin. «Ma non mi sembra risvegliare sufficiente energia in me. Vedi, ci vuole energia per dare una ripassata a qualcuno. E perché disturbarsi? Ha ragione, è così che si fa», disse il cronista con vivacità, sebbene avesse già iniziato a lanciare occhiate ansiose in direzione della porta. «Ma era tutto falso, ogni parola che quel tipo ha scritto, non è vero?» continuò Martin, prestando attenzione solo a Brissenden. «Era solo una descrizione generale, lei capisce?» si fece coraggio il cronista. «E inoltre è tutta pubblicità, e questo è quello che conta, no? Io le ho fatto un favore.» «È tutta pubblicità, Martin, ragazzo mio», ripeté Brissenden con solennità. «E mi ha fatto un favore, pensa un po', fu il contributo di Martin. Mi lasci vedere. Dov'è che è nato, signor Eden?» chiese il cronista, assumendo un'aria di speranzosa attesa. «Non prende appunti», sottolineò Brissenden. «Lui si ricorda tutto.» «Beh, io non ne ho bisogno.» Il cronista stava cercando di non apparire spaventato. «Nessun cronista di classe ha bisogno di perdere tempo con degli appunti. Non ne ha avuto bisogno neppure ieri sera, eh?» Brissenden non era un seguace del quietismo e cambiò atteggiamento di colpo. «Martin, se non gliela dai tu una ripassata, gliela darò io stesso, dovessi cader morto sul pavimento subito dopo.» «E se lo sculacciassi?» chiese Martin. Brisinden meditò giudiziosamente e poi annuì. L'istante successivo, Martin era seduto sul bordo del letto con il cronista a faccia in giù, di traverso sulle ginocchia. Oh. Ora non mordere, lo avvisò Martin, altrimenti dovrò darti un pugno in faccia. Sarebbe un peccato, perché hai proprio una bella faccina. Martin abbassò la mano già alzata e poi continuò a sollevarla e a lasciarla cadere con un ritmo rapido e costante. Il cronista lottò e bestemmiò e si dibatté, ma non cercò di mordere. Brisinden guardava con serietà, ma a un certo punto si lasciò prendere dall'eccitazione e, afferrata la bottiglia di whisky, implorò: «Dai, lascia che lo colpisca almeno una volta!» «Mi dispiace, la mia mano adesso è fuori gioco», disse Martin, quando infine la smise. «È tutta intorpidita», raddrizzò il cronista e lo issò sul letto. «Vi farò arrestare per questo», li minacciò, mentre lacrime di adolescenziale indignazione gli scorrevano lungo le guance arrossate. «Vi farò pentire di questo, vedrete!» «Davvero carino», commentò Martin. «Non si rende conto di aver imboccato la strada della perdizione. Raccontare delle menzogne sui propri simili, come ha fatto questo ragazzo, non è una cosa onesta, non è una cosa leale, non è una cosa degna di un uomo. E lui non lo sa.» «Ha dovuto venire da noi per sentirselo dire», aggiunse Brisinden in un momento di silenzio. «Sì, ed è venuto proprio da me, dopo avermi ferito ed offeso. Adesso il mio droghiere non mi farà più credito. Ma l'aspetto peggiore è che questo povero ragazzo continuerà a comportarsi così fino a quando si trasformerà in un giornalista da quotidiano di prima categoria e anche in un bastardo di prima classe.» «Ma c'è ancora tempo», asserì Brisinden. «Chi può saperlo? Magari sarai tu l'umile strumento della sua salvezza. Perché non mi hai lasciato dargli almeno una bottigliata? Gli avrei avuto un ruolo anch'io.» «Vi farò arrestare tutti e due. Voi, bruti!» singhiozzò quell'anima perduta. «No, la sua bocca è ancora troppo caruccia e troppo debole.» Martin scosse la testa cupamente. «Ho paura di essermi intorpidito la mano per niente. Il giovane uomo non può redimersi. In futuro diventerà un grande e famoso giornalista. Non ha coscienza. E questo basterà a renderlo grande.» Accompagnato da quelle parole, il cronista uscì dalla porta, in ansia fino all'ultimo, per il timore che Brisinden lo colpisse alla schiena con la bottiglia che stringeva ancora in mano. Martin scoprì, nel quotidiano del mattino successivo, molte cose su se stesso che gli erano del tutto nuove. «Noi siamo i nemici giurati della società», scriveva il cronista citando ciò che lui stesso avrebbe detto durante una fantomatica intervista. «No! Non siamo anarchici, siamo socialisti!» E quando il cronista aveva sottolineato come non sembrassero esserci molte differenze tra le due scuole, Martin avrebbe, secondo lui, silenziosamente acconsentito con un'alzata di spalle. L'articolista, poi, continuava descrivendo la presunta simmetria dei due lati della sua faccia, solcata da vari altri segni di degenerazione. Particolarmente notevoli erano le mani da strangolatore e gli occhi, iniettati di sangue, illuminati da lampi di ferocia. Oltre a ciò, Martin scoprì che parlava ogni sera nel City Hall Park agli operai, e tra gli anarchici e gli agitatori che infiammavano le menti della gente nel parco, lui era quello che attirava il pubblico più numeroso e faceva i discorsi più rivoluzionari. Il cronista dipingeva un quadretto a tinte forti della misera stanza dove Martin viveva, del fornellino ad olio e dell'unica sedia del vagabondo dalla faccia da cadavere che gli teneva compagnia e che sembrava essere appena riemerso da 20 anni di reclusione dalle segrete di una fortezza. Il cronista si era dato da fare. Ficcando il naso qua e là, aveva scovato la famiglia di Martin e si era procurato una foto dei magazzini Higginbotham con Bernard Higginbotham in persona, in piedi, davanti all'ingresso. Quel gentiluomo era descritto come un uomo d'affari intelligente e perbene, che non aveva mai tollerato né le idee socialiste di suo cognato, né il cognato stesso, definito come un buono a nulla al quale era inutile offrire un posto di lavoro perché tanto non lo accettava, uno che prima o poi finirà in prigione. Anche Hermann von Schmidt, il marito di Marian, era stato intervistato. Quest'ultimo aveva definito Martin la pecora nera della famiglia e lo aveva ripudiato. «Ha cercato di spremermi, ma io l'ho fermato subito e per sempre», aveva detto von Schmidt al cronista. «Ora non viene più a gironzolare qui intorno. Uno che non vuole lavorare è solo un poco di buono, potete credermi». Questa volta Martin si arrabbiò davvero. Brissenden considerava la questione come uno scherzo divertente, ma ciò non consolava Martin, consapevole che non sarebbe stato facile dare una spiegazione a Ruth. Per quanto poi riguardava il padre di lei, ciò che era accaduto doveva averlo reso più che felice. Era sicuro che il signor Morse avrebbe senz'altro colto l'occasione per spingere la figlia a rompere il fidanzamento. E Martin avrebbe scoperto ben presto con quale prontezza lo avesse fatto. Tra la posta del pomeriggio c'era una lettera di Ruth. Martin l'aprì, presentendo la catastrofe, e la lesse restando in piedi davanti alla porta aperta, dove il postino gliel'aveva consegnata. Mentre leggeva, infilava automaticamente la mano in tasca alla ricerca del tabacco e delle cartine, come faceva nei giorni passati, quando ancora fumava. Non si rendeva conto né che la tasca fosse vuota, né che stesse cercando l'occorrente per arrotolarsi una sigaretta. Nella lettera di Ruth non c'era alcuna passione, non c'erano tocchi di rabbia, ma in tutta la lettera, dalla prima all'ultima frase, risuonavano le note dell'offesa e della disillusione. Lei si era aspettata qualcosa di meglio da lui, aveva sperato che lui potesse superare la dissolutezza della sua gioventù, che il proprio amore sarebbe stato sufficientemente prezioso per Martin da spingerlo a vivere con serietà e dignità. Adesso suo padre e sua madre avevano preso una decisione irremovibile e le avevano ordinato di sciogliere il fidanzamento. Ruth non poteva far altro che ammettere che avevano tutte le ragioni. La relazione tra lei e Martin non avrebbe mai potuto essere felice. Era stato un errore fin dall'inizio. Ma Ruth esprimeva un solo rammarico in tutta la lettera, ed era particolarmente amaro per Martin. «Se solo tu avessi accettato un impiego e avessi cercato di fare qualcosa di degno», scriveva Ruth, «ma non era possibile. La tua vita passata è stata troppo selvaggia e sregolata. Capisco che non è colpa tua. Hai agito secondo la tua natura e la tua educazione. Così, Martin, io non ti incolpo di nulla. Non dimenticarlo, ti prego. È stato semplicemente uno sbaglio. Come mio padre e mia madre hanno sempre sostenuto, noi non siamo fatti l'uno per l'altra. Dovremmo essere entrambi contenti di averlo scoperto prima che fosse troppo tardi. Non cercare di vedermi», aggiungeva Ruth verso la fine della lettera. «Sarebbe un incontro infelice per entrambi, ed anche per mia madre. So, ed è vero, di averle causato molte preoccupazioni e sofferenze. Mi ci vorrà molto tempo per farmi perdonare». Martin rilesse la lettera fino alla fine, una seconda volta, con attenzione. Poi si sedette e scrisse una risposta. Cercò di esporle chiaramente ciò che aveva detto alla riunione socialista, evidenziando in tutti i modi che si trattava esattamente del contrario di quello che gli veniva attribuito dall'articolo. E verso la fine, Martin era l'amante di Dio che supplicava con passione di avere un po' di amore. «Per favore rispondimi», scriveva, «e nella tua risposta non devi dirmi che una sola cosa. Mi ami